Torniamo, lasciamo la pit lane e siamo sul rettilineo principale, dove arriviamo in fondo al rettilineo circa a 200 km orari per la staccata più violenta che abbiamo qui a Fiorano e prima curva in seconda marcia. Poi abbiamo una sequenza di chicane, seconda, terza marcia. Questa è una curva molto molto lunga dove bisogna stare veramente attaccato al cordolo per poi poter affrontare questa in quarta in maniera veloce. Si scarica tutta la quarta fino alla curva che ci mette sul ponte, una curva dove abbiamo, come vedi, tanto sottosterzo. Curva molto difficile ma molto importante. Curva di uscita ponte, sempre in terza marcia, dove si spalanca tutto il gas per poi arrivare in quarta al tornantino che affrontiamo in seconda marcia. Punto di corda, macchina che parte. Qua le gomme fumano un pochino dietro in quel tornante da seconda, perché chiaramente spalancando tutta la potenza, spalancando il gas, le ruote pattinano in maniera importante. Noi la controlliamo. Questa è la curva più veloce che abbiamo a Fiorano, che è una curva di quarta, molto molto impegnativa, perché è una curva molto veloce, circa 180 km orari, per poi arrivare all'ultima curva che noi chiamiamo parabolica, seconda marcia. La macchina qui parte di dietro, bisogna controllarla con il gas, e poi ci risiamo siamo sul rettilineo, dove arriviamo ad appoggiare anche la quinta marcia a circa 200 km orari.